Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera, benvenuti a Smart City. Sono 3 o 4 in tutto il mondo gli operatori che si occupano al massimo livello di arredi museali. Tra questi c'è il gruppo Goppion, con sede a Trezzano sul Naviglio, in provincia di Milano. Loro è la teca della Gioconda, così come loro è l'attuale collocazione della Pietà Rondanini, solo per fare qualche esempio. E sempre loro sono alcune delle più sofisticate tecnologie che permettono di esporre e insieme conservare pezzi d'arte e reperti di ogni tipo, come per esempio la vetrina intelligente che hanno da poco sviluppato e da cui vogliamo partire stasera per parlare di musei e di tecnologia. Diamo quindi il benvenuto a Giancarlo Cotrufo, che è project manager e responsabile della ricerca e sviluppo per la parte digitale del gruppo Goppion, che abbiamo raggiunto tra l'altro mentre si trova a Riyadh per allestire un nuovo museo. Buonasera Cotrufo. Sì, buonasera, grazie di avermi chiamato. Senta, allora, intanto che cosa ci si aspetta di base da una teca che deve proteggere un capolavoro come magari quelli che abbiamo citato prima? Allora, perfetto. La vetrina praticamente è un oggetto tecnologico, non è un mobile. Deve assolvere praticamente a 3 funzioni basilari. Il primo, chiaramente, è quello di proteggere l'oggetto che è custodito all'interno della vetrina. La seconda, quello di conservarlo, e quindi qua parliamo praticamente di una scienza che è la conservazione preventiva. E poi, ovviamente, quella di mostrarlo al visitatore. Per cui l'impatto visivo della vetrina deve essere ridotto al massimo, in maniera tale che ci si concentri sull'oggetto e non sulla vetrina. Certo. Ecco. E che cosa intendete però per vetrina intelligente? Ah, la vetrina storicamente è una vetrina fatta in acciaio e vetro, e quindi ha le sue 3 dimensioni fisiche. Quello che abbiamo voluto fare in Goppion, proprio per prepararci al futuro, è quello di aggiungere questa 4ª dimensione, che è un po' digitale, un po' elettronica, che consente alla vetrina, attraverso una serie di sensori che misurano dei parametri ambientali, di reagire, e quindi diventa una vetrina intelligente, nel senso che riesce a controllare questi parametri ed eventualmente correggerli. Un esempio per tutti: uno dei parametri molto pericolosi, sì, per gli oggetti custoditi nella vetrina è l'umidità relativa. Certo. L'umidità relativa, se scende sotto certi livelli o si alza oltre certi livelli, è deleteria, e certo. Quindi la vetrina riesce praticamente, attraverso delle membrane elettrolitiche ad esempio, a correggere questi valori e impostarli su un valore che è quello ottimale per la conservazione dell'oggetto. E poi naturalmente c'è uno degli aspetti tipici, diciamo, del mondo digitale, e cioè il monitoraggio a distanza, no? Perché è chiaro che queste vetrine, se non ci sono dei sensori a bordo, bisogna continuare a controllare che abbiano i parametri giusti. È corretto, infatti la vetrina funge anche da data logger, nel senso che registra tutti questi parametri nel tempo in maniera continuativa, e praticamente li salva anche in cloud, per fare in modo che poi questi dati possano essere successivamente analizzati da parte di studiosi, conservatori, certo, certo, anche ricercatori, per poter poi presentarli al mondo accademico. Anche. C'è una parte anche invece di intelligenza che è rivolta al pubblico, ci fa un esempio? Sì, è corretto. Praticamente ci siamo basati sulla tecnologia esistente all'interno della vetrina intelligente per poter dare dei contenuti aggiuntivi ai visitatori del museo. Per cui il visitatore, avvicinandosi alla vetrina, viene riconosciuto attraverso una piccola camera. Questa camera è in grado, praticamente dentro la vetrina, di profilare l'utente e capire quindi se la persona che ha davanti è un bambino, è un adulto, e di conseguenza far scattare degli eventi come dei filmati, dei video sui monitor di fianco alla vetrina, magari destinati a quel determinato tipo di pubblico. I contenuti multimediali oggi accompagnano normalmente l'esibizione, insomma, di vari pezzi da museo, e qui però voi li adattate riconoscendo chi avete davanti. Se è un bambino, magari gli fate vedere la stessa storia a fumetti, per capirsi se c'è un signore un po' più in là con l'età, gli fate leggere un documento o gli fate vedere un filmato. Senta, poco tempo fa abbiamo avuto il terremoto qui in centro Italia, e naturalmente non è che i musei siano solo in zone antisismiche. Come ci si comporta rispetto a problemi di questo genere? In zone sismiche è possibile praticamente allestire la vetrina in maniera tale da poter contrastare questi fenomeni. Quindi esistono una serie di dispositivi atti praticamente a contrastare l'effetto sismico, come ad esempio dei sistemi basati su delle culle in grado praticamente di far spostare la vetrina compatibilmente con quello che è il sisma e al tempo stesso anche di smorzare quello che è il moto nel tempo per riportarla quindi alla sua posizione originale, e quindi è possibile dotare la vetrina di questi dispositivi senza grossi problemi. Sono come delle sospensioni sostanzialmente che riducono, no, l'intensità delle vibrazioni, ecco, che agiscono su questi reperti, per i quali magari anche vibrazioni violente possono essere un problema, anche senza che gli crolli sopra il museo, per capirsi, no? Fra l'altro in Italia abbiamo molte competenze in questo senso, per cui veramente tutte le conoscenze per poter agire. Ecco, qual è l'impatto economico di tutto questo insomma contorno digitale? L'impatto economico è veramente molto basso. Oggi la tecnologia ci consente praticamente di sviluppare tutte queste tecnologie ad un costo veramente molto basso. Va bene, grazie. Grazie Giancarlo Cotrufo. Grazie a lei, arrivederci. È tutto anche per questa sera. Ci fermiamo qui. Appuntamento a domani.